okej, okej. Train bit proper. Mike Tappone, Jason. Fare finto tonto, ma sappiamo chi sei. Puoi mentire alla tua lei, a quei quattro babbei. Puoi fare il revettuso tra Grammy and cash, ma la storia della tua vita continua a chiamarla sketch. Puoi avere ogni strato pompato Superman, gonfia rigonfia, somiglia all'omino Michelin. Puoi fare il Jay-Z perché è un dubbio ragionevole, ma se credi ti piace il cazzo è un dubbio abominevole. Puoi fare quello, bello camminare in una vale vera, ma sei così sfigato che pesti sette merda. Puoi essere chi vuoi ma non puoi essere nessuno, discorso inopportuno, resti a digiuno. Puoi essere te stesso guardando il tuo io, ma sembri un pupazzo di neve che canta. Tu resti a capochino, io con sguardo meschino e con la testa sulle spalle di un collo taurino. Puoi essere chi vuoi, puoi fare come vuoi, ma tieniti i cazzi tuoi e i discorsi con cui mi annoi. Puoi fare come vuoi, puoi essere chi vuoi, fai provare a noi. Puoi fare come vuoi, puoi essere chi vuoi, scelgo di essere bestia come Hank McCoy. Puoi essere chi vuoi, puoi fare come vuoi, fai provare a noi. Vuoi fare il Superman, spicchi il volo e cadi. Fai special plan, sei mega trend col cash ti fati. Quale bang bang spari, cazzate subnormali. Non sei in una gang, sei in gang bang con David Bowie. E suoni Clash, io suoni Clash, faccio un crash test. A sto giro il tuo cranio, non lo salvano le mesh. C'è le Stanks, spruzza gesto, fat caps, muta toys senza attributi come Barbie e Ken. E non c'è rock, non c'è punk, sei di plastica. Non è pop, non è rap, è solo plastica. Ti credi al topo, il boom bap che ti mastica. Strappa il tuo cuore dal petto mentre ancora palpita. Vuoi fare il king, sei un king da rincon. Sul beat c'è da con col ponton di King Kong. Quindi occhio gringo e tieni bene a mente sempre che questa è CL mica Kingston. Puoi essere chi vuoi, puoi fare come vuoi, ma tieniti i cazzi tuoi e i discorsi con cui mi annoi. Puoi fare come vuoi, puoi essere chi vuoi, fai provare a noi. Puoi fare come vuoi, puoi essere chi vuoi, scelgo di essere bestia come Hank McCoy. Puoi essere chi vuoi, puoi fare come vuoi. Vuoi fare il mistico? Io sono anni che ti istico, quindi esci le palle oppure sii realistico. E credi che finisca con due rime su una traccia? Non hai capito che il passo successivo sono pugni in faccia. Che figuraccia, vuoi fare quello tutto in? Faccio cin cin quando attento a te come un Osama Bin. Non smetto però match come Star Schiacci. Il male sei sta patch, fanculo, leggilo sull'iTouch. Fai ciò che vuoi, tanto l'ho già fatto prima, mentre tu stavi fatto strafatto di ketamina. E ora non capisci più una rima, dovresti farti una riga, sì, ma di materia grigia. Puoi fare Christian rap con giusto religione, ma già sai come la pensano, già sono essa buona. Se Dio fosse uno di noi, sarebbero solo gran cazzi suoi. Puoi essere chi vuoi, puoi fare come vuoi, ma tieniti i cazzi tuoi e i discorsi con cui mi annoi. Puoi fare come vuoi, puoi